piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Oggi interreremo una capsula del tempo. Siamo ad aprile 2012 e l'apertura prevista è per il 2062, tra 50 anni. Esattamente non so se dureranno le cose, perché c'ho tipo le fotografie un po' di carta, adesso vi farò vedere cos'è che ci voglio mettere. Però l'idea è che o io o voi dovrete riaprire questa scatola tra 50 anni. Il contenuto principale della scatola saranno le fotografie, rappresentano un riassunto dei miei primi 25 anni di vita. Sono circa 200 le foto che ho stampato, alcune sono già dentro. Alcuni volantini di parchi, non necessariamente del 2012, ma del 2009 questi sono, per fare un confronto come saranno questi parchi, se esisteranno tra 50 anni. Altre fotografie in formato digitale che speriamo siano ancora leggibili, perché questi sono dei DVD e non so se esisteranno più tra 50 anni. In ogni caso ho delle fotografie di viaggi e alcuni dei miei filmati. Il ricordo della mia esperienza a Madrid: ho lasciato due mappe della metro di Madrid, una commentata secondo le mie impressioni della città e l'altra libera. Vedremo come si amplierà la rete, diciamo. Ho questo bonus che sono delle varie tessere, ho inserito anche delle monete, delle lire, tra cui anche un gettone telefonico, se ve lo ricordate. E tra parentesi, questa foto di Sirio, che era una fototessera, che lui si stava sistemando i capelli proprio mentre ha scattato. Lo sapete cos'è una capsula del tempo? È un oggetto che si suppone impermeabile, resistente alle intemperie, che qualcuno nasconde sotterra, in cui mette delle prove, delle vestigia, delle testimonianze del momento in cui sta vivendo, cose importanti per la sua vita, le sotterra, sperando che dopo secoli, millenni, fantaeoni, qualcuno le trovi e abbia una traccia del suo passaggio sulla terra o di qualcosa che lui reputa importante tramandare. Vi faccio un esempio: cosa metterei io adesso nella mia capsula del tempo? Non so, le pastiglie per il mal di gola che ho in mano, la memoria digitale del mio telefonino, ma sarà difficile poi forse decriptarla fra qualche secolo, il ferro di cavallo che porto sempre vicino in questi minuti che precedono la trasmissione, perché devo stare un po' attento, e poi non so, poche altre cose, i miei occhiali, scriverei un racconto del tempo in cui sto vivendo, delle mie inquietudini, metterei l'umarel di plastica che sogno qualcuno mi regali a Natale, metterei ciò che trovo nelle mie tasche vuotate, piccoli oggetti, figurine, biglietti da visita, qualche moneta dell'epoca in cui sto vivendo, e quella sarebbe la mia capsula del tempo. Perché questa mattina vi chiamerò a raccolta, a descrivermi la vostra possibile capsula del tempo. Perché è avvenuto un episodio che, di quelli fra il fantastico e il surreale, un turista per farsi un selfie nella chiesa di Santa Agueda a Sotillo de Rivera in Spagna ha fatto cascare un Cristo, il famoso Cristo del Miserere, un'opera della seconda metà del Settecento. Andandolo a restaurare hanno tolto praticamente, mi consenta il credente, le mutande al Cristo, cioè quel panneggio che aveva Cristo per coprire le vergogne, e sotto hanno trovato un biglietto. Un biglietto che in realtà è una capsula del tempo, dove un abate di quella chiesa, si chiamava Joaquín Minguez, aveva messo in un fogliettino scritto tutto quello che lui pensava importante della sua epoca, parlando del 1777. Un documento che gli storici dicono molto importante, perché scopriamo che a quell'epoca in Spagna, come oggi si fa il tifo per Totti o per i grandi calciatori, si aveva lo stesso furor di popolo per i grandi toreri del tempo. C'è l'elenco dei toreri famosi del tempo. Poi racconta cose banali, il colera, la peste, il tifo, tutte le malattie di cui allora si parlava, perché non ci si vaccinava al tempo naturalmente. Parla di quelli che erano i rituali che lui compiva in chiesa, anche documento storico importante, dei giochi dei bambini, di piccole cose che sembrano indifferenti nel momento in cui si vivono, diventano dei reperti importantissimi per poi quelli che saranno i posteri. 800240024, quello che fece l'abate Joaquín Minguez, possiamo farlo anche noi oggi. Immaginiamo la nostra scatola del tempo, quale capsula vorremmo sotterrare, e quando poi fra qualche secolo qualcuno la troverà, cosa racconterà questa capsula di quello che noi siamo, di quello che noi stiamo vivendo? Una vera e propria capsula del tempo, nascosta da più di due secoli, è stata scoperta in Spagna all'interno del corpo del Cristo del Miserere, che si trova nella chiesa di Santa Águeda a Sotillo de la Ribera, in Spagna. Alcuni restauratori, rimuovendo un pezzo di stoffa che copriva i glutei della statua in legno del Cristo, hanno ritrovato un documento segreto scritto nel 1777. Si tratta di un messaggio manoscritto firmato dal sacerdote della cattedrale di Burgo de Osma, Joaquín Minguez. Il messaggio, rivolto ai posteri, racconta lo stile di vita e le pratiche tipiche dell'epoca, che vanno dai passatempi della popolazione spagnola ai culti religiosi. Parla dei personaggi più popolari in quell'epoca, compresi i toreri, e descrive i giochi preferiti dei bambini e le malattie più comuni dell'epoca. Cari ascoltatori, avete mai trovato una capsula del tempo? E soprattutto, se doveste fabbricarne una, che cosa ci mettereste dentro? Chiamate ora all'800240024 e dateci la risposta. Come realizzare una capsula del tempo? Ingredienti: una scatola di metallo, fototessere e fotografie vostre, del vostro partner, di un amico o un'amica speciale, dei vostri familiari, una compilation con la musica che state ascoltando in questo periodo, se possibile una registrazione audio o video di una serata tra amici, un foglio di carta dove avrete scritto cosa vorreste fare tra un anno, la prima pagina del giornale di oggi, un accessorio a cui tenete particolarmente, un cappello, un guanto, eccetera. Il resto dipende da voi, dalla vostra storia personale, da quello che vi è più caro al momento. Magari la ricetta della nonna su come fare le tagliatelle perfette, o magari la targa del vostro motorino andato distrutto, il biglietto del cinema nel quale avete conosciuto la persona con cui state adesso. 800240024, voglio da voi questa mattina la procedura particolareggiata di come confezionereste, come realizzereste, dove nascondereste, cosa mettereste nella vostra capsula del tempo. Alberto, buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, è lei. Oh, bene. Io metterei nella capsula qualche buona idea per le generazioni future, magari. Me ne dia una, che io in questo momento ho un vuoto di memoria. Un'attrezzatura per la riabilitazione del mal di schiena. Per vedere se si è realizzata. Adesso sono una decina d'anni che cerco di portarla avanti, ma non riesco ancora a realizzarla. Questa è la sua invenzione, sarebbe. Lei ha inventato un sistema nuovo per il mal di schiena. Esattamente. E come funziona? Funziona che è un'attrezzatura tipo da palestra, da ginnastica, statica, si fanno dei particolari esercizi. Vabbè, questa è la sua invenzione. Cosa metterebbe, diciamo, gli esecutivi, i piani o l'attrezzo proprio vero e proprio? Ci vorrebbe un capsulone, una sorta Ma di... Io già ci metterei questo accenno, poi vedere magari, ecco, io ho 61 anni, tra 50 anni sicuramente... È morto, certo. È morto, però facciamo. Magari Alberto lì di quella trasmissione poi si è realizzato. Io le consiglierei di metterci intanto i piani per realizzarla, come i disegni di Leonardo, come si realizza, perché mettere la macchina in sé è voluminoso. Prima fare un brevetto, perché non è che si possono dare così le idee. Ma lei tanto che, scusi, ma fra 50 anni è morto, lei che gliene importa? La regala all'umanità futura, se nessuno riconoscerà in vita il suo valore. Sotto capsula. No, ma la capsula... Non la apre nessuno quella capsula. No, le metterla sigillata in un posto nascosto. Però nell'umanità poi non bisogna sempre fidarsi. Sì, ma lei le farà in modo che non la ritrovino almeno fra 70 anni, 80 anni. Quindi se lei non l'ha brevettata nel frattempo, almeno l'umanità futura avrà il vantaggio di questa macchina per il mal di schiena. Così funziona. Siccome io magari invece continuerò a non trarne nessun vantaggio, magari se l'umanità continua ancora a soffrire di mal di schiena saranno affari suoi. Io ho risolto i miei problemi. Scusi, lei allora è crudele. La capsula del tempo, il buon abate dell'abbazia spagnola ci sta insegnando molto cos'era la civiltà, la cultura, le paure della sua epoca. È un atto di altruismo la capsula del tempo. Lei può anche non farlo, mica obbligato, però allora lei cerchi di realizzare il brevetto finché è in vita e speri di trarne il massimo vantaggio. Disma, buongiorno. Salve Nicolè, io sì. Mi porterei, vabbè, il mio discorso non è molto altruistico, però... Guardi che l'altruismo non è un obbligo, eh. Appunto. Se c'è bene, se non c'è, nessuno può imporlo agli altri, è esatto. Impossibile. Io intanto mi porterei la mia tastiera musicale, perché mi piace la musica, mi piace suonare. Aspetti, non è che se la porta, capiamo bene, lei sta da un'altra parte. Quando troveranno la capsula del tempo, lei sarà un mucchietto di polvere, se no non c'ha senso. Lascia ai posteri qualcosa che secondo lei è significativo, quindi lascia la sua tastiera. Non è molto altruista il mio discorso, per cui poi intanto mi porterei anche dei prodotti tipici della mia terra, della Puglia, perché comunque mi piace mangiare. E beh, mica può mettere le friselle, le cozze, le patate dentro la capsula del tempo. Pomodori, questa roba qua, roba genuina. Ma non avete capito, scusate, devo rifare il punto, non avete capito una mazza. La capsula del tempo è un oggetto piccolo, una capsuletta di metallo, d'acciaio, in cui mette piccole cose significative. Se lei è un musicista, mette la sua musica scritta, probabilmente sperando che sia decodificata. Si immagini che questa roba sarà trovata fra secoli. L'abate l'ha messa nel 1770, l'hanno trovata nel 2017. Non è un faraone che c'ha una piramide che ci mette dentro tutta la sua vita. La tastiera è troppo grossa, cioè come fa a mettere i vasi con dentro i pomodorini seccati della Puglia o le olive sotto Salamoia? Non può. A meno che lei si faccia una piramide, scavi una fossa profonda, diventa la sua piramide del tempo. Ma è troppo questa cosa qua. Quindi sentiamo Lorenzo, se abbiamo capito meglio. Lorenzo. Ah, buongiorno, salve. Ma io mi sto autoregistrando e sto cominciando a elencare alcune ricerche che ho fatto sui miei antenati, fino ai primi del 1800, in modo da creare una sorta di archivio familiare da poter perpetrare poi ai miei nipoti, che molto probabilmente, se verranno fuori, saranno molto piccoli quando io morirò. Per cui vorrei che loro contestualizzassero. Ma dove la ho capito, lei farebbe l'albero genealogico, tutto il suo studio sugli antenati. Sì, sto anche fotografando e filmando la mia città, le mie abitudini, quello che faccio giornalmente. Quindi sarà un insieme di fotografie e di documenti scritti. No, ma anche videoregistrati proprio. Però c'è un problema, Lorenzo, bisogna affrontarlo tecnicamente. Noi non abbiamo la certezza che i supporti che oggi usiamo per mettere contenuti multimediali saranno leggibili fra qualche secolo. Probabilmente, statisticamente, storicamente, il supporto che dura più nel tempo è la pergamena, perché di pergamene ne abbiamo di migliaia di anni fa. Di supporti multimediali non ne abbiamo. Quindi come farebbe a mettere questo materiale? Ma io a livello cartaceo ho già tutti i documenti rilevati dalle anagrafi, ho le foto della mia città, per quello non c'è problema, solo che poter anche sentire la mia voce o poter vedere anche come interagisco tramite un video sarebbe molto più istruttivo per un mio futuro. Ma lei può provare a mettere un supporto USB con dentro tutto, sì, sperando che da qui a qualche secolo ancora lo leggeranno. Esatto. No, sto già facendo una cosa così, c'ho già dei file inseriti all'interno del computer e mi sembra... Sì, però questo per come regola generale, dobbiamo guardare oltre, noi dobbiamo immaginare che lei questa sua storia la troveranno non i suoi nipoti, i suoi quadrisnipoti, la troveranno nel 2300, faccia conto. Nel 2300 probabilmente l'umanità, se non ci sono state catastrofi, conserverà la maniera di leggere anche antichi file, probabilmente. Però non è sicuro al 100%, quindi sarebbe meglio una copia stampata su un supporto abbastanza non deperibile di tutto il suo materiale. Helen, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo contribuire con un'esperienza che ho vissuto adesso di recente, alla festa di compleanno di mio padre, che gli abbiamo fatto la sorpresa di un albero genealogico che andava fino al 1600. C'è un bellissimo sito, myheritage.com, e dico, merita vederlo. In più, lui ha fatto una graditissima sorpresa a noi, che ha scritto sui giornali la continuazione, perché scoprendo negli archivi di famiglia diari quotidiani di spese dei tempi, penso dall'inizio del secolo del 1900 fino a anni 90, quindi della nonna e della bisnonna. Quindi Ele, lei mi conferma che uno delle prime, diciamo, desideri di chi colloca una capsula del tempo è mettere la storia di sé, della propria stirpe, no? È un'autostoricizzazione. Esatto. Sì, e lei ha trovato anche una capsula del tempo? Io penso di sì. Allora facciamo un attimo, si fermi un attimo, me lo racconta fra un istante dopo la pausa, perché leggo nella scheda che ha trovato una capsula del tempo negli archivi della nonna. Voglio capire di che si tratta. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta nel 2000, mi ricordo che eravamo in spiaggia con i miei bambini, erano piccolini, abbiamo preso un pezzo di carta, abbiamo scritto il nome, ognuno ha scritto il nome, chiaramente loro non sapevano scrivere, eccetera, l'abbiamo messa dentro a una bottiglietta di plastica, di quelle che non si degradano neanche tra mille anni, sigillata bene, messa dentro della sabbia asciutta, chiusa e dopo messa in un punto sott'acqua, dove c'era uno scoglio particolare, disegnato la mappa e tutto, è capace di essere ancora lì, andrà fossile, tra mille anni la troveranno fossile, si chiederanno chi è sto che ha messo le firme, insomma. L'ha trovato mio padre che ristruttura case dentro un muro di una vecchia cascina ed era praticamente una sorta di cilindro di vetro con un tappo in alluminio con su scritto magnesia. C'era un foglio ingiallitissimo, perché risale ai primi del Novecento, c'era un foglio ingiallito con tutti i nomi dei componenti familiari di questa famiglia, l'anno e sotto un saluto a chi troverà questo. Allora, qualche SMS, un signore scrive che metterebbe un tablet con una carica batteria, pannelli solari, così tra mille anni possono riprodurre i suoi file. Questa potrebbe essere un'idea. Qualcuno mi chiede che tipo di carta ha usato l'abate per seppellire questa sua capsula del tempo dentro il panneggio del Cristo. Un altro fa notare che l'ha messo in un luogo intimo proprio così era più difficile la gente ci mettesse le mani. Chiaro, mica dormono gli abati spagnoli del Settecento. Un altro signore metterebbe uno smartphone, una mappa delle linee aeree mondiali, elenco degli accordi commerciali e politici del pianeta, una raccolta delle maggiori testate giornalistiche mondiali, insomma qualcosa che racconti il suo tempo. Un altro ci metterebbe oggetti assurdi, strampalati, farebbe una capsula del tempo fake per confondere le idee al futuro. Questa è una bella idea comunque. Un altro signore, che è sempre il solito, che scrive sempre alludendo al mio ambiguo comportamento sessuale, dice: nella capsula del tempo ci metterei la mia minchia come simbolo dell'italica mascolinità. Sì, può farlo, risparmia anche spazio in una mignonette del Fernet Branca, ce la può mettere tranquillamente, durerà e lascerà traccia indelebile nei millenni della sua prorompente virilità. Helen, ci eravamo interrotti con lei, mi sta raccontando del suo ritrovamento di una capsula del tempo. Sì, che è durata questi 100 anni, forse qualcosa in più. 100 anni, ma chi l'aveva messa? Chi l'aveva nascosta? La nonna l'ha nascosta a tutti quanti, tutto quanto, perché c'erano delle cose, direi anche molto importanti. Dove l'aveva messa? Lei l'ha messa in uno scomparto segreto dello scrittoio. Cos'era, un foglietto scritto, un foglio scritto? No, era uno scompartimento segreto, nessuno sapeva che c'era, ma c'erano un sacco di lettere, di documenti, di diari. Man mano che li portava, lei li ha lasciati dentro. Mio padre dopo li ha letti tutti, ha fatto tutta una collezione e oggi abbiamo un archivio che è molto bello, che ci ricorda come hanno vissuto, come il mondo ha influenzato i cambiamenti mondiali, come hanno influenzato la famiglia e come la famiglia di conseguenza poi ha influenzato anche qualche avvenimento storico. Quindi molto bello, molto bello. E chissà perché sua nonna l'aveva nascosto questo materiale, aveva paura che si perdesse. Per magari evitare delle sofferenze, sa, sono cose anche molto difficili. Ah, perché sono vicende quindi familiari dolorose, spesso, sì, strane. Molto, molto dolorose, sì. E quindi noi siamo qua per magari superare questi dolori, per raccontarlo come una storia, però storia di famiglia. Ma fanno ancora male dopo 100 anni? Sono cose che ancora fanno male dopo 100 anni? Sì, sono cose che fanno male anche dopo 100 anni, ovviamente. Sono cose personali, ma facci capire di che ambito, sì. Solo per capire il portato del pathos di sua nonna. Magari, sa, durante la guerra, vicissitudini di famiglia che non erano molto semplici, il nonno magari ghigliottinato a Berlino, quindi cose difficili. Ecco, beh, però diventa un bel romanzo a distanza di 100 anni, sarebbe una storia da scrivere proprio. Sì. Però vede l'importanza. Oggi però noi pensiamo... Io credo ancora nella carta, anche perché quest'anno sono andata a vedere i rotoli di Mar Morto, quindi dico, io credo nella carta, quindi sono molto all'antica. Ecco. No, ma l'antica ancora è la scienza che lo dice. Il supporto che con evidenza scientifica oggi è più durato nel tempo è la carta, la pergamena, perché è quello che abbiamo dopo tanti anni, dopo tanti millenni, addirittura parliamo ancora di età che vanno anche oltre. Il resto è transeunte. Clemente, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, io in questa scatolina ci metterei tutte le schedine dei giochi dello Stato, Lotto, Super Enalotto, Totip, anche un gratta e vinci. E poi la lotteria nazionale, sperando che non sia quello vincente. Ma ormai non valgono più, quando le trovano mica vincono più niente. Appunto, però fare capire alla gente come noi giocavamo e ci divertiamo in questo tempo e perdevamo anche i soldi. Ah, è questo. Che tipo di contenitore userebbe? Nessuno parla del contenitore, cosa userebbe lei? Io una bottiglia di plastica, perché è quella che secondo me dura di più. Questo è giusto, nessuno ha pensato, perché fino, diciamo, a anteguerra tutte le capsule del tempo erano seppellite in supporti metallici. Oggi abbiamo la plastica in realtà è abbastanza eterna, è difficilmente deteriorabile, quindi è molto più facile fare una capsula del tempo. Franco, buongiorno. Franco? Pronto? Sì, Franco, l'ascolto. Allora, io 30 anni fa ho fatto, in occasione di una grande ristrutturazione di un'abitazione, della mia abitazione, e ho fatto una capsula del tempo motivata dal fatto che tutte le volte, è un palazzo antico, tutte le volte che io ho fatto o i miei genitori hanno fatto dei lavori abbiamo trovato sempre qualcosa nei muri molto importanti. Ma mi faccia qualche esempio, no? Perché sono curioso, cosa avete trovato voi? Ho trovato per esempio un servito di bicchieri, ho trovato degli orci, ho trovato dei capitelli, delle sculture, ma non murati nel muro, nascosti. Messi in un vano. Quindi tutte le volte mi ha dato molta gioia trovare queste cose, e quindi ho pensato, in questa occasione avevamo fatto un grosso buco nei muri per ristrutturare, avevamo rinforzato con delle longarine, ho pensato di mettere una grossa capsula del tempo, preso per ricambiare il favore a quelli che l'avrebbero trovato in seguito. E cosa che ha usato come contenitore? Questo come contenitore ho preso una grossa scatola, di un grosso cassone, diciamo, di plastica, sì. Circa 50 centimetri per 40 per 30, sì. E l'ho riempito di cose che ho pensato avrebbero fatto piacere a chi l'avrebbe mi dica, provato. Mica qualcosa, così capiamo 100, 200, la procedura di una capsula del tempo. Cosa ha messo dentro? Allora, dentro ho cominciato a mettere dei libri che avevo, che mi piacevano, una Divina Commedia illustrata da Dorè, e ci ho messo Il Gattopardo, perché mi piaceva, ho messo un libro che illustrava la città nella quale abito, e poi ho messo, in quel periodo io facevo l'orafo, ho messo un paio di orecchini, una collana e un braccialetto. E non ha messo, di suo non ha scritto nulla? Prego? Di suo non ha scritto nulla di personale? Sì, certo, ho scritto la storia della famiglia, i nomi dei componenti, ho messo le fotografie, ho messo un messaggio di auguri e di saluto alle persone che l'avrebbero trovata, poi ho messo due bottiglie, una di Stock 84 e una di Baileys, perché è un liquore che mi piace. Sì, non è che gli vuol tanto bene ai posti. È quella cremina lì che si beve. Quella cremina che a me piace, sono un bevitore, quindi la bevo volentieri. Sì, sì, non discuto dei gusti altrui, figura. Lo Stock 84 è un po' agé come... È agé, però è tipico della zona. Sì, è vero, sì. Poi ho messo una piccola scultura in bronzo, sì. Una piccola scultura in marmo, una testa veramente di marmo, sì. E una scultura in ceramica. Beh, fantastico, la trova un tesoro, però se ci pensa. La trova un tesoro, e tantissime foto, più le planimetrie antiche della casa, e ho messo ancora un vecchio giocattolo di quando ero bambino. Quindi già 30 anni che questa capsula è seppellita. È 30 anni che è seppellita. Ah, ho messo anche dei CD che non so che fine faranno, però ci ho messo dei CD con la musica, una selezione di musica del periodo che ho fatto io. Sì. E ho spiegato, la lettera è molto lunga, e ho spiegato tutto quanto. Beh, è fantastico. Molto affettuosa. Vabbè, ho fatto un bel lavoro, è contento. Sono molto contento, ogni tanto ci penso, e spero che la troveranno non subito, magari tra 200 anni, ecco, potrebbe essere già un periodo buono. Ah, mi ero dimenticato, ho messo 5 giornali quotidiani che rispecchiavano il periodo. Diciamo dalla regia che sono brutti tipi, dicono che il Baileys ha la caratteristica di essere un liquorino che si fa bere alle donne per farle un pochino cedere, che magari non pensano che sia alcolico, lo bevono pensando che è una cremina, tipo che ne so, un tiramisù, una cosa del genere. Quindi è un liquore infame da questo punto di vista. Quindi, però, chi apre la capsula del tempo probabilmente ne avrà bisogno. Fra 300 anni ancora avrà quel suo bel aroma di cremina al whisky e se lo berranno volentieri. Ci fermiamo un istante. Anni fa, ristrutturando casa, che era una casa dei miei tresavoli di mia mamma, inizi del 600, togliendo un sasso da un muro, ristrutturando il tetto, è uscito un pentolino in terracotta pieno di monete d'oro, marenghi, fiorini, e c'erano monete in argento. All'interno c'era una pergamena dove erano arrotolate queste monete e c'era scritto da questo tresavolo di mia mamma che lasciava queste monete, questi averi, i figli dei figli del seno materno. Io la tengo in un armadio ed è semplicemente una scatola rosa con dei coniglietti disegnati, ed è una scatola che io, diciamo, ho creato così per la mia nipotina, per il suo futuro, per quando sarà più grande. Ci ho messo dentro un po' di tutto. Ho cominciato con il giornale di quando è nata, il quotidiano. Poi ho messo dentro la prima fotografia fatta insieme. Poi ogni compleanno, la fotografia del compleanno, così lei vedrà come cresce lei e come invecchierò io. 800240024, vedete che l'idea della capsula del tempo è suggestivo. Suggestivo perché c'è un retrogusto di rimpianto, di nostalgia. Un po' ci dispiace perché lasciamo delle cose che sappiamo che noi non vedremmo mai nella fase fatale della scoperta, però allo stesso tempo abbiamo l'impressione che qualcosa di nostro è importante, che il nostro passaggio su questa terra non è stato del tutto indifferente, se abbiamo dei reperti concreti da lasciare agli altri. Il vero problema rispetto alle precedenti volte che abbiamo parlato di capsule del tempo, io vi dico, ne avrò parlato 20 anni fa, forse alla radio 30 anni fa, era che non esistevano i social network. Oggi il social network dà l'idea che ognuno di noi quotidianamente lascia tracce di sé in una capsula del tempo. Ma è un tempo diverso, è un tempo futile, è un tempo volatile, è un tempo sovrapponibile, è un tempo che va a finire racchiuso dentro i server di chi gestisce Facebook, chi gestisce Instagram. È tutt'altra cosa rispetto al nostro oggetto metallico, plastico che noi sigilliamo dentro il muro di casa nostra, pensando che la casa sarà abitata fra molte generazioni e qualcun altro lo troverà e capirà e vedrà, e in quel momento avrà la sensazione che noi abbiamo abitato quel luogo. Lia, buongiorno. Buongiorno, io volevo riferire che, avendo comperato una vecchia cascina diroccata circa 20 anni fa, e la cascina aveva già più di 150 anni, ho trovato nel ristrutturarla, nel sottoscala, una scala di legno pericolante che portava ai solai sopra dove si mettevano le pannocchie, ho trovato tante bottiglie di vetro piene di vino, sigillate ovviamente, sepolte nella sabbia, perché sotto il pavimento non c'era un pavimento, era tutta sabbia. E c'erano queste bottiglie di vino sigillate, e sopra il vino, praticamente prima al collo, c'era un centimetro di olio, evidentemente per conservarlo meglio, certo, non fare entrare l'aria. Cioè, ma è una roba di 160 anni fa. Però non è una capsula del tempo, diciamo, è una cantina nascosta, un po' diversa, no? Probabilmente era una cantina nascosta. Ma l'ha assaggiato lei? Era morto da tantissimi anni. L'ha assaggiato il vino? Ma ci ho provato, ho messo un dito dentro e c'era l'olio sopra, ho dovuto prima assorbire con un tomatino. Ma l'olio si butta via, ma l'olio si butta facilmente, facile buttare l'olio, basta rovesciare la bottiglia, cade. o con una cosa assorbente. Ma cade anche il vino? No, no, prima esce tutto l'olio, sfidi. Ah, prima esce? Sì, certo. Non lo sapevo. Si rovescia la bottiglia. Comunque io ho assorbito con un tovagliolino di carta, poi ho pucciato dentro il dito e vino, però vabbè, a me non piace il vino, non so che sapore abbia, non so. Non è la persona adatta. Ma chiami un intenditore, probabilmente ha un suo valore anche storico di reperto il vino. Potrebbe anche essere, perché un paio di bottiglioni da 2 litri, da 3, non so, li ho tenuti. Hanno trovato il falerio in anfore seppellite di antichi romani, si figuriamo, il vino degli antichi romani. Quindi il vino in qualche maniera può essere tramandato. Certo, non è più quello quando è stato appena fatto, come viene spillato la botte dal suo vinaio. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, sì. Sono io? Sì, certo. Bene. Buongiorno al signor Nicoletti, la sento con una certa frequenza, con piacere. La mia idea della... La frequenza muta dalla latitudine, la sente la frequenza della città in cui la sta ascoltando. Sì, mi dica, dai, dica Giuseppe. Allora, dicevo, mi piace l'idea di una capsula del tempo che tramandi idee e immagini per qualche millennio, perché lei ha appena detto poco fa, siamo in un'epoca ipertecnologica in cui il trasferimento di informazione nel suo senso più ampio è continuo, quindi non c'è bisogno di una capsula del tempo che duri 30, 40, 50, anche 100 anni. Allora pensiamo, diciamo così, a un qualcosa di apocalittico. Serve per mandare informazione per qualche migliaio di anni. Allora, in un cilindro d'acciaio inossidabile si possono mettere delle lamine di oro. Io ho pensato alle lamine d'oro. Che cioè all'interno ricoprirlo di oro? Prego? All'interno del cilindro ricoprirlo di oro? No, no, no. A scrivere su lamine d'oro? Lamine d'oro, quindi incidere su lamine sottilissime d'oro, che costano non costano cifre folli, sì. Incidere l'informazione, informazione che può essere sia naturalmente verbo che immagini. E questi cilindri, lamine d'oro sottilissime, si arrotolano come le antiche pergamene e messe in un cilindro. Perché l'oro, diciamo, è il metallo che maggiormente resiste nel tempo. Assolutamente. Per attaccarlo ci vuole solo l'acqua grigia, non si attacca con l'altro, l'umidità, la pergamena, la carta, i funghi, l'umidità ne fanno positivo. Quindi l'oro è la maniera migliore, delle lamine d'oro da seppellire con le informazioni per l'umanità, è interessante. Con i messaggi sintetici, addirittura volendo scrivere non in caratteri latini, si potrebbe scrivere in Morse, in codice Morse. Il codice Morse, guardi, è già dimenticato. Sono radiotelegrafista diplomato alla scuola di San Giorgio a Cremano, quindi, ma il Morse non lo usa più nessuno, è scomparso. Non è vero? Sì, lo usano. Ma certo, i radioamatori lo usano. Ah beh, radioamatori, sì, ma come dire, per uso, diciamo, ufficiale è quasi del tutto dismesso. Quasi, ha detto quasi, perché non è vero. Lo usano, per esempio, gli israeliani per trasmettere informazioni ai loro agenti. Ah beh, perché siete... lei userebbe il codice Morse. Ecco, sta trasmettendo in questo momento Morse? No, no, no. Sento una trasmissione in sottofondo. No, quello è la suoneria del mio telefono. Ah, è suoneria del mio telefono. Che suona attualmente il codice Morse. Benissimo. Barbara, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti, buongiorno. L'ascolto. Noi abbiamo fatto, noi come famiglia, una piccola capsula del tempo, perché dove abitano i miei genitori c'era una volta, parlo del 1500-1600, un vecchio convento cappuccino, quindi c'è una madonnina di esterna. Sì. E quando l'abbiamo ristrutturata abbiamo inserito semplicemente un vaso di vetro chiuso con dentro qualche moneta. Sì. Magari ci sembrava carino che qualcuno trovasse, sì, le monete antiche. Qualche nostro messaggio, anche se non si sa se la scrittura sarà per quella, però un messaggio di saluto e di benvenuto. Mi sembra un piccolo libro, qualche altra fotografia. Di che materiale è la Madonna? Di cosa è fatta? È di muratura, diciamo così. Di cemento, quindi... No, di mattoncini, ecco. Ah, una Madonnina fatta con i mattoni. Sì, esatto. In un parco. Tipo, quindi lei pensa, dice, che durerà nel tempo? Era già lì, appunto. Ma è grandezza naturale, cioè grande quanto una persona? La Madonnina sì, un po' più grande. E quindi c'entra molta roba dentro. Però ma la nostra capsula era piccola perché l'abbiamo ristrutturata, quindi non era enorme. Però insomma è sicuramente una cosa che rimane. Beh, ha fatto più o meno un'operazione per chiudere la trasmissione come quella che ha fatto l'abate spagnolo. L'ha messa dentro un'icona sacra, un simulacro sacro, sperando che il rispetto verso appunto il contenitore mantenga più a lungo il suo contenuto. Alla prossima.